Già l'anno scorso, e speravamo che fosse l'unico anno, non potendo fare la festa fisica, lanciamo quest'idea a tutte le persone di mandarci una loro foto, che poi noi abbiamo attaccato sotto i portici, e per fare in modo che in questo modo fosse come se le persone fossero presenti, metteteci la faccia. Quest'anno abbiamo ripreso questa cosa da un punto di vista quindi di contenuti visivi, però lanciando una specie di un progetto, coinvolgendo le scuole, coinvolgendo poi allargandoci alla cittadinanza, ai centri anziani e a tutti quelli che insomma desideravano partecipare, di fare degli elaborati, dei contenuti tipo dei disegni, delle poesie, dei pensieri, delle fotografie, qualcosa che li ricordasse, che li ricollegasse alla Resistenza, alla festa della liberazione, alla festa della liberazione nel Pratello. Oltre a ciò, quest'anno noi ci tenevamo a riportare un'altra grande parte che ci è mancata molto, che è la parte diciamo della musica e degli interventi, e quindi la parte sonora della festa, che era una parte fondamentale. Quindi non potendo essere presenti fisicamente, abbiamo chiamato in aiuto Radio Fujiko e abbiamo strutturato diciamo un pomeriggio di diretta radio che faremo dal Prato di Via del Pratello, in cui porteremo i contenuti, quindi interventi e anche la musica dal vivo, sperando che questa diretta, che ovviamente sarà a porte chiuse, riesca ad arrivare in strada grazie all'aiuto dei residenti che magari possono farlo sentire dalle finestre. Come sempre, il Pratello Resiste non è solo una festa che ricorda quello che è stato, ma attualizza anche il concetto di resistenza. Quindi ti chiedo, all'interno dei contenuti che ascolteremo appunto nel pomeriggio, cosa potremo sentire? Purtroppo quest'anno ci sono mancati, come l'anno scorso, i momenti collettivi in cui appunto il Pratello si apre alla città e ai movimenti e tutto quanto per costruire insieme il programma. Però abbiamo diciamo cercato di mantenere un contatto con tutte le realtà antifasciste della città e, come stavi dicendo tu, di attualizzare, di andare avanti con questo nostro filo di attualizzazione delle resistenze. Quindi ci sarà quest'anno un ricordo del ventennale del G8 di Genova, ci saranno i compagni della Primo Moroni che parleranno dell'Abdi Altedo, dell'istanza che loro hanno sull'Abdi Altedo, ci saranno ovviamente tutti gli artisti che porteranno la loro musica in radio, che parleranno anche della situazione della cultura, dell'arte, della musica e di un settore che insomma è stato tra i più colpiti. Abbiamo un collegamento con Casa Cervi per partire diciamo anche dal ricordo della resistenza classica, e poi abbiamo anche una collaborazione, un contributo che porterà Radio Spore, che parlerà degli spazi occupati partendo dalla situazione di XM, e poi insomma adesso non raccontiamo tutto, però insomma ci sarà parecchia roba. No, certo, ci sarà anche uno spazio per ricordare un grande personaggio del Pratello che ci ha lasciato poco tempo fa, che è Sant'Enotar Nicola. Assolutamente, verrà ricordato ovviamente in radio, e tra l'altro anche quello invece in presenza in Piazza San Rocco alle 15. Sì, assolutamente, in Piazza San Rocco ci sarà appunto un ricordo con poesie, con musica e altre cose, e in radio ci saranno una serie di letture di poesie di Sante, insomma ci ha lasciato da poco, e il Pratello era indissolubilmente legato insomma alla sua figura, ha lasciato un grande vuoto. Quindi l'appuntamento è ovviamente per il 25 aprile via Radio Città Fujiko, ma anche dalle finestre, speriamo che appunto molte cittadine e cittadini possano portare non solo in via del Pratello, ma magari anche in altri punti della città, questa festa non in presenza, sperando che sia l'ultima ad essere non in presenza. Assolutamente, sarà sicuramente una delle dirette più fighe della storia della radio, quindi io spero che non si limiti solamente a via del Pratello, insomma abbiamo cantato dai balconi, adesso sui balconi mettiamo Radio Fujiko.